buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio Città Fujiko. Oggi siamo qui con Margherita Boudillon. Ciao. Che è tra gli organizzatori del Festival di Musica Elettronica e Sperimentale Ombre Lunghe, che si terrà dal 31 marzo al 2 aprile negli spazi degli Atelier C. La prima domanda che ti faccio riguarda il titolo dell'edizione, che è Lente Fantasma, e si riferisce al tema della trasparenza come medium esplorativo. Puoi spiegarci meglio cosa si intende, come nasce l'idea e come vi siete fatti ispirare da questo tema per organizzare l'edizione? Allora, i fantasmi sono, diciamo, una metafora per arrivare a diversi livelli di senso, quindi non tanto il fantasma come entità misteriosa, non fisica, un fantasma fisico, ma tutte le presenze fantasmatiche che quindi per intercettare dobbiamo entrare in un diverso livello di percezione della realtà, attivare i sensi in un modo che siano invasori in qualche modo, arrivare a delle tipo di percezioni profonde. E questo perché i nomi, diciamo, delle edizioni di quest'anno lavorano moltissimo su voci riverberate, su dei suoni ambient molto vaporosi, espansi, trascendentali in qualche modo, in modalità molto molto diverse, che però in qualche modo creano queste atmosfere. Appunto l'edizione del festival si chiama Lente Fantasma perché attraverso queste atmosfere è come se possiamo entrare in delle soglie in cui si inizia a sentire, percepire, stare insieme in delle modalità diverse. Puoi parlarci un po' di questi artisti, degli artisti che si esibiranno al festival? Sì, allora infatti abbiamo avuto come nella preview del 17 marzo, che era al Teatro San Leonardo, una musicista francese che si chiama Malibu, che appunto ha fatto questa performance che secondo me era molto rappresentativa della tipologia di suono che si incontrerà anche per il festival, quindi con rarefazioni etere fatte di molti cori e voci riverberate, e accompagnata da un chitarrista che lavorava con un sacco di suoni e di effetti sulla chitarra, che si chiama Detente. Invece appunto il festival inizia venerdì 31 marzo, ci saranno sia appunto dei live che dei DJ set. E allora abbiamo un po' di italiani che però hanno anche delle pubblicazioni all'estero e un po' di artisti stranieri. Tra gli artisti stranieri ospiti c'è Abadir, che è Rami Abadir, che è un producer, un sound designer e DJ egiziano che vive a Berlino, però adesso è uscito per un'etichetta di Shanghai e ha suonato in festival abbastanza conosciuti, diciamo, nell'ambiente dei festival a cui noi ci riferiamo, per esempio la Sound di Cracovia, che presenta sempre delle cose molto interessanti e molto d'avanguardia, e anche il Festival Transmediale di Berlino, CTM, ed è stato adesso selezionato per una piattaforma europea che, diciamo, fa girare un po' di artisti giovani che portano, diciamo, delle nuove tendenze in ambito musicale, e che si chiama Shay. È stato appunto come talento emergente del 2022. Poi ci sarà Aya, già al Club Club di Torino a novembre scorso. Il suo live è molto fluttuante, proprio magmatico, in cui c'è una narrazione dell'io che prende corpo in una voce assolutamente spettrale, con dei ronzii, super elettronica, super astratta, che ha avuto un album di debutto incredibile che è uscito nel 2022 per la Hyperdub Records, che è un'etichetta UK abbastanza famosa, quella per cui è uscito anche Boreal, eccetera. Poi ci sono alcuni nomi che dobbiamo ancora confermare. Ci sarà Psemmi, che è una DJ olandese, che è una resident di NTS, che è anche una producer che è uscita per esempio l'etichetta Pan di Bill Kuligas, che è un'etichetta formidabile per cui conosciamo un sacco di nomi molto interessanti, ma per me sarà un DJ set perché lei ha fatto una residenza al Garage Nord di Amsterdam ed è diventata molto famosa anche perché per i suoi DJ set, quindi lei ci piace molto. Poi come producer invece italiani c'è Presenta, che è un'artista bolognese che è uscito per la Yerevan Tapes, che è appunto l'etichetta sempre di Bologna, e farà anche un live molto che ha a che fare sempre un po' con una dimensione del digitale mescolato a questioni anche emotive del sé. Lavoro di ci sono molti campioni. Poi da poco abbiamo confermato Siege, che è una artista italiana, producer italiana, che però è prodotta da delle etichette all'estero, è uscita nel 2019 per l'etichetta You di Andrew Lister, che è appunto inglese, che abbiamo avuto anche qualche weekend, no, forse già qualche mese fa, sempre per una preview di Ombre Lunghe, e adesso è uscita per nel 2021 per un'altra etichetta di Amsterdam che si chiama Neke, il quiz. Poi abbiamo avuto anche la conferma di Mone Lang, che invece ha dei suoni molto, sì, particolari, che ricordano sonorità forse un po' più elettronica del French Touch. Comprare dei suoni più pop in qualche modo, ed è uscita per l'etichetta Never Sleep di Gabriele Ganza nel 2021. E diciamo questi sono più o meno i nomi. Poi chiudiamo con un DJ set super di DJ Marcella, che è appunto un'artista visionaria, che sia una producer che una DJ formidabile, con tre giradischi diversi, suona con tre giradischi, ha una collezione infinita di vinili. I suoi DJ set sono delle performance proprio, quindi diciamo che chiudiamo così. Poi, oltre ai nomi, diciamo, abbiamo attivato un po' di collaborazione a livello territoriale. Appunto, abbiamo un DJ set anche da un DJ di Club Adriatico, Bangutot, e poi faremo delle collaborazioni con due collettivi di Bologna, che sono l'associazione Parsec, invece il collettivo ASAP, che si occuperanno invece o di una parte installativa o di una parte performativa. Comunque, appunto, l'ambiente, diciamo, sarà proprio curato da loro. E poi avremo anche un'artista visiva che si occuperà di tutta la parte illuminotecnica, però appunto con luci LED in campo reale. Un weekend intenso. Un weekend intenso, sì. Alla luce del tema invece dell'edizione, qual è l'obiettivo che vi siete poste a livello di fruizione? Ombre Lunghe, diciamo, è comunque un festival piccolino, che però appunto è la sua quinta edizione, quindi ha avuto vari formati, varie modalità, che è il formato rassegna, più espanso dell'anno scorso. Diciamo che c'è un pubblico cittadino che conosce Ombre Lunghe, però per esempio anche con la preview del 17 marzo abbiamo avuto moltissime persone da tutta Italia in realtà, c'erano persone dal centro Italia, da Roma, da Perugia, da Spoleto, da Venezia, o c'erano anche un sacco di ragazzi francesi e delle ragazze greche e russe, che non so bene quali sono i canali attraverso cui sono arrivati a Ombre Lunghe, però è una bella vittoria, diciamo, riuscire ad arrivare anche spandersi un po' oltre il circuito cittadino, che comunque più o meno ci conosce e frequenta il festival. Bene, allora grazie mille e ci vediamo negli spazi dell'Atelier C dal 31 marzo al 2 aprile con il Festival Ombre Lunghe. Grazie mille della disponibilità. Grazie a Grazie. te per l'intervista. Ciao, Grazie, ciao. ciao, ciao.